24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. A 45 minuti di aria fritta, in cui non ha detto niente, non ha fatto nessuna autocritica sui suoi fallimenti di questi suoi primi 206 giorni. Vede così, arrabbiato Brunetta, arrabbiato per Renzi. Certo, alle 6.37 minuti siamo qua, sono un po' arrabbiato anch'io, anche un po' incazzato. Va bene, ma non ci volevano far entrare oggi, alle 6.37 minuti, ci siamo finalmente, eh? Di solito iniziamo alle 6.30, cosa è successo? Misteri, boh, non si sa. A Radio 24 1 più 1, mica fa sempre 2, boh. Non si sa. Va bene, questo è 24 mattino, siamo qui anche oggi, cari ascoltatori. Saluto Miriam Luchetti in redazione, saluto Peter Bescapè in regia, il nostro alpino. Dobbiamo subito aprire il Parlamento, forza che siamo in grave ritardo. Dai, dai, che il cappuccio non c'è. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Allora, devo subito salutare Paola Saluzzi, la rossa. Ma canzone, ma meravigliosi siete, sì. Voi adorati. C'è una meravigliosa canzone di Cremonini che dice le 6.36. Sì. Quindi dai, forza, dai, lo schema Allegri, dai lo schema Allegri che funziona anche in Champions League, forza, dai, saluto anche Luca Dini, direttore. Buongiorno. Il direttore buongiorno, di Vanity Fair, ora è chiaro che tutti gli italiani oggi si sono svegliati con una sola domanda in testa, Paola, tu la sai, una sola domanda. Una. Mi appello a te. Hai visto Ballarò? O di Marte di Macchisse, Io facevo saltellavo. Ho fatto molta ginnastica ieri sera. Saltellavi qua e là. Vabbè. Oggi, sono visti tutti e due, dai, forza. Io metterei tutti gli articoli oggi sui giornali, tutti nella carta costa, tutti gli articoli che discutono su oggi i giornali sono una pietà clamorosa. Ci sono giornali che a pagina 5 mettono il dibattito tra meglio Floris o meglio Giannini. Questo è il dato di fatto. Però ce lo aspettavamo, dai. Ce l'aspettavamo, dai. Vabbè, oggi sono troppo polemico. Tu, Luca Dini, cosa hai guardato? Un film. A un certo punto uno, Don Dino Pirri, ha scritto su Twitter. Non sapendo scegliere. Ti sei, certo. È il dramma. Don Dino Pirri, ieri su Twitter a un certo punto ha detto, ma cosa guarda, c'è la Bibbia su Rete4, che dubbi avete? Don Dino però è meraviglioso proprio per questo. C'era. E che film ha visto il nostro mitico Non direttore? Lo so, che film hai visto, direttore? No, ho visto un vecchio film, The Sessions, bellissimo. Non conosco, però insomma sono, che film è? È la storia di un disabile alle prese con un assistente sessuale. Sì, aveva fatto molto discutere, non l'avevo visto. Giustamente, c'è Ballarò, c'è Di Martedì, e invece ti era rimasto questo film indietro da 2 anni, esatto. Quindi era la serata giusta, capito Paola Saluzzi? Va bene, comunque è apparso un Benigni che è anche un po' la nostra sigla, straordinario, attratti straordinario. Da Ballarò, adesso devo sbagliare, non voglio sbagliare, era Ballarò, sì. Era Ballarò ed è stato superlativo come sempre, da leggere nelle virgole, da leggere nei respiri Benigni. Era quello di Rai3. Sentiamo qualcosa di Benigni, dai, la battuta su la migliore è stata questa sul ministro Giannini, ministro, Sì. Un ministro fotografato al mare a seno nudo, diciamo, non succedeva dai tempi di Spadolini. questa stravince, e poi se l'è presa un po' col PD, le robe, Renzi, sentite questa. PD esiste, poi è l'unico partito che riesce a fare opposizione a Renzi, è l'unico, è ancora fortissimo, meno male che c'è il PD, se non ci fosse Renzi lo sai che hai capito? Vabbè, il PD che fa opposizione a Renzi e poi le battute sul gelato. Ma poi quando si parla di Matteo Renzi mi deve permettere, mi scusi, ma bisogna adeguarsi, cioè, camicia bianca, io ho sbagliato con una slide, qualcuno c'ha un gelato. Ecco, c'era questa cosa però che molti dicevano, ma Giannini, ma non devi parlargli sopra, ma non devi, non è un'intervista, fagli fare le battute, Benigni, vabbè, insomma, chi c'è? Però la versione intervista, la versione chiacchiera tra i due non era male, non era non fare le battute, era un'intervista. Ci sono state molte critiche a dire fallo parlare, insomma, vabbè, insomma, ma si sa, siamo dei criticoni, però vorrei... Pazzesco Benigni. È veramente l'unico che ha quella leggerezza, capacità di... Sì, è vero, ha quella verve. È stato criticato anche lui, le solite cose, ma invece a me ha fatto ridere, Benigni. Sarà che si vede talmente raramente che quando lo vedi... È stata una perla trovarlo lì per 20 minuti buoni in intervista. Secondo me era bella l'intervista, ma pareri assolutamente personali. Certo. Ricordiamoci il futuro, insomma. Ricordiamoci bene, come ha concluso. Questo è l'appello di Benigni. C'è un altro che si vede poco e parla poco, è Matteo Renzi. Ieri quando ho visto Paola Saluzzi su Sky, ho acceso se c'era lì al Senato che parlava e alla Camera aveva appena parlato. Che cosa ha detto in sostanza secondo voi Matteo Renzi? Ha detto riforme o voto, cioè è una minaccia di elezioni anticipate, Paola? Beh, c'è stato, diciamo, una non paludata indicazione al diamoci una mossa, altrimenti si va al voto che non conviene a nessuno in questo momento, non ci conviene di fronte all'Europa, forse converrebbe a qualcuno, ma non converrebbe da un punto di vista proprio di paese intero, per quello che dobbiamo risolvere noi e per quello che dobbiamo dimostrare di saper risolvere agli altri. Però insomma, un'indicazione molto robusta l'ha data innegabilmente, tanto che molti di Forza Italia hanno detto bene, siamo entrati in campagna elettorale. Siamo in campagna elettorale da un bel po', secondo me. Capito, è in campagna elettorale permanente questa dell'Italia, però sì. Il concetto di dire o si fanno le riforme o fate le riforme, cari parlamentari, oppure il rischio del voto c'è. Si va fino al 2018 solo se si fanno tutte le riforme. Ma bene. No, ma certo, ma politicamente che cos'è questa se non una minaccia bella e buona, Luca Dini? Ma voglio dire, ma ci sta nella politica le minacce? Nel senso, io penso che questo Parlamento, se non sotto minaccia, non farà nulla, non farà nessuna riforma. Quindi non credo ci sia un'alternativa, se non quella del ricatto, se vuoi, però... si vede per la storia della consulta, cioè ecco, il Parlamento che fa fatica a esprimere qualsiasi cosa. Vabbè, ma la questione della consulta è una questione vergognosa. Ieri ancora il Corriere titolava "Oggi è il giorno decisivo". Io ho messo la foto su Twitter scrivendo dicono che è il giorno decisivo. Oggi, titolo del Corriere, altra fumata nera. Non riesce a essere decisivo. Ma Paola, Alessandro, sottolineiamo questo, magari per gente esasperata che dice "ma a me che cosa può importare di nomi che non si trovano". Se non si trovano questi nomi non funziona il Parlamento, cioè è proprio un tappo, è un blocco. No, è chiaro, si sta votando questo e se no non si può e votare, se non si, non fa si questo, può fare non altro. Si va avanti, quindi avanti tutta, insomma, procedete, andate e fate qualcosa. È sempre stato frutto di confronto politico e di regole non scritte dettate tra i diversi partiti, ma fate per cortesia. Fare qualcosa. Quindi c'è questa storia della minaccia delle elezioni anticipate. Molti giornali oggi la mettono così. È stato un discorso preelettorale di Renzi che ha già la via, come dire, la via di uscita, cioè non mi fate fare le riforme, allora sapete che c'è, io vi porto. Si va alle elezioni. Potrebbe essere una lettura, almeno è la lettura che danno molti quotidiani anche oggi. E poi, ma dopo il traffico, la segreteria telefonica, c'è la questione del lavoro anche. Renzi che lancia l'idea di cancellare l'articolo 18 e fare la riforma del lavoro per decreto, e su questo già si sono suscitati degli decreto no, vabbè. 24 mattino. Penso che Renzi sia un genio, adesso fa lavorare i parlamentari 2 giorni per la settimana, così questi fanno dei danni che fino ad oggi non hanno potuto procurarci. E così finalmente arriva la Troica a controllarci. E alle prossime elezioni Renzi si può prendere il merito di aver salvato l'Italia. Geniale! Io sono l'uomo più felice del mondo, perché innanzitutto faccio l'agricoltore. C'ho una famiglia che mi piace assai. E se Dio vuole, la prossima primavera divento nonno per la seconda volta. E vi voglio dare un consiglio, gente. Se volete essere felici, fate come me. Me ne frego! Mi sento in colpa perché spesso penso ai miei problemi e mi dimentico chi la gente che veramente, ma veramente soffre. Veronica Lario, 3 milioni di euro al mese sono stati ridotti a 2. Ma ti rendi conto? Ma poveretta, ma ce la farà? E io mi preoccupo per me delle volte, ma in confronto questi sono i veri problemi dell'Italia e degli italiani. Sono commosso. È nato un nuovo GM che unisce giornalista e giornalaio. Si chiama Alessandro Milan. Caro Milan, come va? Mio nonno mi ha lasciato un gufo imbagliato e stamattina lo gufo male, l'ho interpellato e mi ha detto che Renzi deve stare attento alle iti di marzo, perché ci sta Bruto D'Alema e Cassio Letta che stanno affilando le spade. Attenti alle idi di marzo. Ah, a proposito di imbasticare il fuoco, significa che tu sei tanto bravo che ormai ti manca solo di mangiare il fuoco. Questo era Paola Erangelino che è tornato. È meraviglioso questo uomo. Però Cassio, Shakespeare, Bruto, Cassio. Hai visto? Cassio Letta e Bruto D'Alema, o il contrario. Si portano via fuoco, però voglio dire. Fate come il contadino anche l'altro. Me ne frego! Sì, questo. Sì, quello diventa nonno per la seconda volta, giustamente. Ma che se ne frega lui? Che se ne frega lui di parlare della Corte Costituzionale? Vabbè, ma che dobbiamo dire? Perché sospiri, caro Lucadini? No, pensavo bello il messaggio del sì, del contadino. Me ne frego di tutto quello che... No, la prima parte, insomma, sì, fate la nonno per 2 volte, coltivate la terra, eccetera, vabbè. E noi qui a parlare di lavoro. No, però al di là di questo, Renzi, vi chiedo questo in maniera sintetica. Secondo voi ha ragione Renzi quando parla di apartheid nel mondo del lavoro? A parte l'immagine ovviamente molto, molto cruenta, cioè dire ci sono molti che sono tutelati, che sono quelli a tempo indeterminato per cui non puoi licenziare, ci sono quelli, le partite IVA, i co-co-co, i giovani, i precari, che invece sono zero tutelati. Luca, ha fatto bene secondo te a impostare il discorso così? Come dire che non ha ragione, cioè ha straragione. Secondo me quando si parla di queste cose sarebbe bello ogni tanto sentire l'opinione di quelli che nessuno rappresenta, che sono questi qui, i giovani che non entrano. Insomma, è inutile far finta che non sia così, cioè, l'Italia è spaccata in due. No, perché si dice spesso le tutele sono di diverso tipo, ti accusano di dire bisognerebbe avere tutele per tutti, quelli che ce le hanno le mantengano e quelli invece che non ce le hanno vengano tutelati. Vabbè, questo è bello mondo dell'utopia o no? Paola Saluzzi, tu che ne pensi? Un mondo dell'utopia che prima o poi qualcuno dovrà realizzare, così diventa un mondo reale. L'apartheid sul lavoro esiste, straesiste, resiste. Ti viene rabbia perché vedi gente che non solo fa cascare la penna alle 5, fa cascare la penna alle 5 dopo che ha passato la mattinata al telefono a parlare del pupo o di qualcos'altro ed è tutelato da un contratto a tempo indeterminato, dico cose molto naturali e molto impopolari. Ma e che, poi tutti, c'è gente che tutti vediamo tutti i lavoro, giorni, è chiaro. Che si ammazza di lavoro nella speranza di poter ottenere qualcosa che si avvicini ad un contratto di lavoro. Quindi 10 su 10 punti ha ragione di quello che ha detto Renzi. Vabbè, qui abbiamo il portavoce della nuova segreteria del PD, Paola Saluzzi. Ci vuole buon senso. Il capo del cerimoniale Luca di... No. E corriamo a Lino Milan, al Quirinale. D'altronde, se c'è arrivato anche Bisio, non ho capito perché. Non ci posso arrivare io. Vabbè, ma qui io ho Vanity Fair. Attenzione, voglio fare una domanda che da tre giorni mi attanaglia la mente. Ho detto, quando ho Luca Dini, voi che vedo che oggi avete un'esclusiva del matrimonio indiano, quello sobrio, hai presente Paola Saluzzi, quello in Puglia? Sì. Sobrio, molto fine, molto chic. Quanto potrà costare l'esclusiva del matrimonio di George Clooney? L'esclusiva del matrimonio di George Clooney? Non lo so, perché non lo so ancora, nel senso che si girano già voci, ma si sa solo che sarà una cosa di, al solito, di beneficenza. Sì. E quante persone saresti disposto ad uccidere per avere? No, uccidere nessuno. No, ma dai, si scherza. Torturare, dai. Sì, ecco, torturare un po' pur di avere l'esclusiva. Come funzionano queste? C'è un mercato, ci sono delle persone in valigetta che vengono con l'impermeabile a presentarti l'offerta, l'offerta esclusiva. Come funziona? Ci vuoi spiegare? No, sarà semplicemente che un giornale, credo americano, avrà un'esclusiva, ti dico, in cambio di una grossa donazione a una causa di beneficenza di quello. Ma la sceglie Clooney? Sicuramente sì. E secondo me sarà People Magazine, sono quasi sicuro. Sì, e poi ci sarà una sempre con lo stesso meccanismo, ma ovviamente con somme molto ridotte, una distribuzione ai mercati, diciamo, ai vari paesi. Vi saprei dire. Intanto in copertina c'è una Beatrice Borromeo, cara Paola Saluzzi. Ah, che bella. Come... E brava. Sì. Brava, è bella, sicuramente come non l'avevamo mai vista di schiena, però voglio tranquillizzare tutti di schiena. Che dire, c'è un Saluzzi viene al parco a prendere un po' di aria fresca, mi scrive un ascoltatore. Non ho capito bene il significato di questa. Non si sa, ma certamente mi scelgo io la compagnia, ma insomma comunque volendo a prendere un po' di aria fresca al parco è buona. È un invito a prendere un caffè. Oh Paoletta mia, la tua voce è melodia. Questo ci scrive Massimo, va bene. Che dire? Invitiamo Massimo subito in onda, assolutamente. Oggi a Sky TG24, no, io vi devo salutare, oggi purtroppo ho poco tempo, ma è così, siamo partiti. Buon lavoro, comandante Alino. Paola, che fai oggi? Oggi politica. Oggi incredibilmente Paola Saluzzi parla di politica. Mamma mia. Oggi i giornali sono una pietà incredibile, ve lo preannuncio, quindi non comprateli voi lavorate. No, comprateli tutti dal Sole 24 Ore prima e poi tutti gli altri, va bene? Ciao, alla prossima. Me ne frego! 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Allora, alle 7:18 minuti siamo qui, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali con voi e per voi. Vi ricordo che oggi parleremo di quello che è successo ieri politicamente, nel senso che Matteo Renzi ha detto 1.000 giorni si facciano le riforme e la scadenza naturale arriverà nel 2018, oppure si andrà a votare se il Parlamento non farà le riforme. È una minaccia di voto anticipato per molti, per altri no, è una naturale pressione politica, come dire, siamo qui a cambiare l'Italia, altrimenti si va a votare. Ha parlato dell'articolo 18, ha detto se non c'è la riforma del lavoro la faremo per decreto. Insomma, i temi politici che affronteremo con Luca Telese, conduttore di Matrix, con Claudio Cerasa del Foglio e poi avremo ospite anche il responsabile di Open Polis, che controlla il lavoro dei parlamentari. Lavorano poco, lavorano tanto, lo scopriremo. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo mercoledì 17 settembre, intanto i titoli molto dedicati al discorso di Renzi ieri a Camera e Senato sui 1000 giorni per il Sole 24 Ore. Il titolo è questo: Renzi nel Jobs Act, il piano per superare l'articolo 18. Così anche per il Corriere della Sera: lavoro e giudici, sfida di Renzi. Mentre per La Stampa: lavoro, l'affondo di Renzi. E il Messaggero: articolo 18, via il reintegro. Per Repubblica: Renzi, via l'articolo 18 per decreto, caos, consulta, altra fumata nera. Il Fatto Quotidiano la mette così: Renzi minaccia le urne e attacca i giudici come Craxi e Berlusconi. Per Libero invece è Renzi la qualunque, come Cetto la qualunque, il personaggio di Albanese. Il titolo di prima pagina del Giornale invece è Renzi picchia aria di voto. Il Secolo XIX, riforme, Renzi allo scontro, mentre il Manifesto, lavoro a termine. Come vedete, la maggior parte dei titoli sono proprio dedicati al discorso di Renzi ieri alle Camere, mentre Avvenire apre così: le guerre di Obama, raid presso Baghdad, alleanza tra ISIS e Al-Qaeda, in Africa 3.000 soldati per fronteggiare Ebola. Mentre io voglio partire, allora c'è grande attenzione con tutti gli inviati di tutti i giornali del mondo in Scozia, dove domani si vota. L'abbiamo sentito anche il GR24, si vota per il referendum sull'indipendenza. Dopo 300 e rotti anni gli scozzesi potranno votare se vogliono separarsi dalla Gran Bretagna oppure no. C'è da dire che i bookmakers, come racconta il Corriere della Sera, danno per favoriti i no. Quindi, secondo i bookmakers, non ci sarà la secessione. Tutti i giornali raccontano con i propri inviati il clima, raccolgono i pareri delle persone comuni, dei politici, degli intellettuali. Ormai il dado è tratto, la sfida arriva all'ultimo giorno. Il Giornale mette con Eleonora Barbieri a pagina 15 anche gli appelli di tutti gli intellettuali, di tutte le personalità politiche italiane a favore della Scozia. Beh, da Mario Borghezio, che ha fatto questo appello addirittura in gaelico per votare, a molti leghisti, ma anche Vittorio Sgarbi, Roberto Gervaso, Pietrangelo Buttafuoco, eccolo qua anche lui in foto sul Giornale, dato a favore dell'indipendenza della Scozia, e Michela Murgia, scrittrice, che ha corso anche alle regionali in Sardegna, a favore della Scozia. A favore della Scozia indipendente c'è anche Umberto Bossi, che viene intervistato da Ilario Lombardo sul Secolo XIX, e a pagina 9 dice: se prevale il sì, sarà secessione anche da noi. L'impostazione è proprio questa, non è una sorta di fallimento, invece voi non ce l'avete fatta. Ma l'Italia è il paese del fascismo, risponde Bossi, e ancora oggi non se n'è andato del tutto. Poi siamo in Europa, che ha il compito di garantire il centralismo democratico e gli stati nati nel secolo scorso in qualunque modo. Forse dovevamo attaccare di più lo Stato centrale. E comunque, dice Bossi, in Veneto nelle famiglie nessuno parla italiano. Noi in Lombardia purtroppo abbiamo subito il colonialismo italiano. Se parlavamo in dialetto a scuola succedeva un cataclisma. Comunque i veneti andranno avanti per la loro strada, otterranno l'indipendenza e trascineranno tutto il nord. Sappiamo che è difficilissimo anche per colpa dei magistrati, ma tutto quel che è giusto prima o poi arriva a compimento. E conclude l'intervista Bossi quando gli si chiede di Salvini, che è tornato a parlare di bastoni contro Roma. Certo, rispetto ai fucili che minacciava lei, ma Bossi replica: i fucili sono più pratici, e ride a conclusione di questa intervista con Ilario Lombardo sul Secolo XIX, Umberto Bossi, che dunque punta all'indipendenza della Scozia per poi cercare di puntare all'indipendenza di Veneto e Lombardia. Veniamo alle questioni italiane. Il Fatto Quotidiano e il Secolo XIX sempre raccontano di un episodio molto grave che è avvenuto alla procura di Palermo, dove il procuratore Roberto Scarpinato si è trovato sulla scrivania nei giorni scorsi, la notizia è trapelata ieri, una lettera portata a mano nell'ufficio che è iper super controllato e quindi è stata bucata la sicurezza, racconta il Fatto Quotidiano. Una lettera nella quale c'è scritto: lei esorbita, noi non facciamo eroi. Lei sta esorbitando dai suoi compiti e dal suo ruolo, lasci che le cose seguano il loro corso, ogni pazienza ha un limite. Questa la lettera recapitata, portata a mano, scritta con un foglio, su un foglio con parole scritte al computer e messa sulla scrivania di Roberto Scarpinato. Come raccontano Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza sul Fatto Quotidiano, la procura violata, intimidazione al procuratore generale Scarpinato e tra l'altro si parla del ritorno del corvo. E noi non facciamo eroi, quell'avvertimento che chi indaga legge come un esplicito riferimento a metodi raffinati di soppressione fisica, visto che racconta il Fatto la storia di questo paese piena di morti strane, oppure di delegittimazione attraverso accuse fasulle. Anche il Secolo XIX dedica una pagina a questa vicenda, Stato Mafia, lettera di minacce al procuratore generale Scarpinato. Lo scritto suggerisce al magistrato di rientrare nei ranghi e qui si sul Secolo XIX, quando dopo l'attentato fallito alla Daura, Giovanni Falcone parlò di menti raffinatissime. Il paragone è quello, visto che si parla di persone che sono riuscite a entrare in un ufficio, conoscendo dunque evidentemente gli spostamenti, le abitudini del procuratore generale Scarpinato, e quindi si guarda all'interno della stessa procura. Ma ricordate la vicenda dei vitalizi del Trentino Alto Adige? Abbiamo raccontato di come molti ex deputati, ex consiglieri regionali della provincia autonoma di Bolzano erano riusciti a entrare in possesso di vitalizi perché bisognava riparametrare il tutto con il nuovo sistema dei vitalizi modificato, e allora i diritti acquisiti non possono essere mai toccati, quelli dei politici, e quindi il Trentino Alto Adige aveva liquidato alcuni assegni fino a 400.000 euro in attesa di modificare la normativa per i consiglieri futuri. Ebbene, ora c'è una novità e questo articolo vince il premio Mani sul Volante, l'articolo che ci fa più incazzare della giornata, con Diodato Pirone. Siamo sul Messaggero. In realtà la notizia è positiva. È positiva perché la regione Trentino Alto Adige ha deciso che quei diritti acquisiti di quei consiglieri si possono toccare e ha chiesto la restituzione dei soldi a quegli stessi consiglieri. Perché dite questo articolo ci fa incazzare? Perché uno legge le cifre: vitalizi d'oro, il Trentino chiede indietro i soldi. Diodato Pirone sul Messaggero a pagina 9 scrive: chissà la faccia che ha fatto, sarebbe impagabile disporre di un selfie di Mauro Della Dio scattato dopo l'apertura della raccomandata che gli ha chiesto di restituire 462.684 euro e 26 centesimi. A chi può capitare una disavventura del genere di questi tempi? Risposta facile: a un consigliere regionale. Della Dio, un impiegato della Telecom di 57 anni, diploma dell'Istituto Industriale, ex leghista, passato a Forza Italia, è uno dei 20 consiglieri regionali trentini ai quali la regione ha inviato in questi giorni una letterina pesantissima, un decreto di ingiunzione per centinaia di migliaia di euro. C'è chi si è visto chiedere indietro, appunto come Della Dio, 462.000 euro, chi come Werner Frick 417.000, chi come Pino Morandini 319.000, chi come Oscar Peterlini 338.000, chi come Luis Durvalder, l'ex presidente di Bolzano, 186.000, e così via. La cifra netta da restituire, tutta specificata sul Messaggero, sono soldi. Altro che diritti acquisiti, cari ex consiglieri del Trentino, sono soldi che dovete restituire. E ora che faranno? Faranno ricorso? C'è sempre una corte costituzionale, quella di cui non si eleggono tra l'altro i due giudici. C'è sempre un giudice a Bolzano. Alessandro Milan, il Rocco Siffredi dell'informazione. Eh già, Alle 7:34 minuti, siamo qui a leggere ancora i giornali. Allora, come detto, molti quotidiani aprono e dedicano varie pagine di commenti, analisi al discorso che Renzi ieri ha fatto alla Camera e poi al Senato col dibattito successivo. Parlava dei 1000 giorni. Che cosa ha detto in sostanza Renzi, racconta Alessandro Trocino a pagina 2 del Corriere della Sera. Il titolo è questo: Renzi avanti fino al 2018 solo se si fanno le riforme, e poi a fondo su toghe e lavoro. Scrive il Corriere: se la prende coi professionisti della tartina, non i gourmet, ma chi salta da un convegno all'altro senza trovare soluzioni, si schiera al fianco dell'Italia che si sveglia presto al mattino e si spezza la schiena, spiega di avere l'assoluta certezza che i suoi 1000 giorni siano l'ultima chance per il paese. Il governo punta, spiega Renzi, a capovolgere la storia di questa legislatura, a rimettere in pista l'Italia. E poi parla del mondo del lavoro, basato sull'apartheid, usa questa espressione. Renzi dunque promette che il diritto del lavoro non potrà essere quello di oggi alla fine dei 1000 giorni, perché quello di oggi divide i cittadini in cittadini di serie A e di serie B. Se sei una partita IVA non conti niente, se sei un lavoratore di un'azienda sotto i 15 dipendenti non hai alcune garanzie, se stai sopra sì. E ovviamente questo investe in pieno la questione dell'articolo 18. Ora, come la pongono i giornali? Ci sono giornali come il Fatto Quotidiano, come il Giornale, come Libero, che dicono, beh, chiaramente Renzi ha in mente una cosa, anche se lo stesso Premier ha smentito, il voto anticipato, questa minaccia. Minaccia politica, ovviamente, o si fanno le riforme oppure si va al voto. Questo, per esempio, titola il Fatto Quotidiano: il Premier minaccia così le Camere. C'è da dire che invece Massimo Franco, in prima pagina del Corriere della Sera, ed è l'editoriale del Corriere della Sera, dal titolo La tentazione intermittente, scrive: sarebbe ingiusto sostenere che ieri in Parlamento Renzi abbia aperto la campagna elettorale. Si tratterebbe di un processo alle intenzioni che il Presidente del Consiglio non merita. Rimane tuttavia il problema di quello che farà qualora non riuscisse ad agguantare alcuni degli obiettivi indicati e di quale sarà l'effetto di una serie di richiami indirizzati all'Europa, alla magistratura e più in generale a chiunque esprima scetticismo sul successo delle sue ricette. Scrive ancora Massimo Franco: bisognerebbe chiedersi come mai abbia trasmesso l'impressione a una parte del Parlamento di voler votare. Evidentemente la sua insistenza su una riforma elettorale da fare al più presto insinua al sospetto che voglia capitalizzare i consensi delle europee del 25 maggio, né è sufficiente a esorcizzare una simile prospettiva la sua precisazione che gli converrebbe andare alle urne, ma non lo farà perché pensa all'interesse nazionale. Se le riforme ritenute altrimenti dirimenti per il rilancio dell'Italia non marciano, chiedere la legittimazione popolare che tuttora non ha per Renzi diventerebbe quasi un dovere. Così scrive Massimo Franco, ovviamente a patto di avere un sistema elettorale in grado di garantirgli l'eventuale vittoria e la possibilità di gestirla da Palazzo Chigi. Sì, perché tra le tante cose che ha detto Matteo Renzi ha detto anche questa: voglio fare la legge elettorale, la riforma elettorale subito, subito. Siamo nella 72esima settimana decisiva per la riforma, insomma, quella roba lì che sapete. Allora, sul mondo del lavoro, però, sulla riforma del mondo del lavoro, Renzi ha dedicato appunto questa espressione forte dell'apartheid, della divisione tra cittadini di serie A e serie B, tra quelli che sono troppo tutelati e quelli che non lo sono per niente. Subito si è alzato uno scudo di critiche, come spesso avviene di recente, soprattutto all'interno dello stesso Partito Democratico. Sentite per esempio Fassina, Stefano Fassina, ex viceministro dell'economia, certo non un amico di Renzi, intervistato da Alberto D'Argenio su Repubblica a pagina 2, dice: agire per decreto sullo statuto dei lavoratori è inaccettabile. Che le riforme dobbiamo farle bene, nel più breve tempo possibile. È diventato stucchevole continuare a discutere in termini generici. Le riforme possono essere di destra o di sinistra, progressive o regressive. D'altra parte, andare al voto senza averle portate a termine sarebbe una sconfitta per tutta la classe politica. e sull'articolo 18 il governo si era impegnato su un contratto unico a tutele crescenti che disboscasse la giungla di contratti precari e finanziasse l'estensione delle indennità di disoccupazione a precari che oggi ne sono esclusi. Invece approdiamo all'emendamento Sacconi-Ichino che mantiene tutte le forme contrattuali precarie e cancella le tutele. Insomma, dice Fassina, sbaglia, ieri ha dato questa espressione, altro che lavoratori di serie A e serie B, Renzi vorrebbe tutti i lavoratori di serie C, questa l'ipotesi, l'idea di Fassina. Comunque, racconta Emilia Patta sul Sole 24 Ore, pagina 5, il piano è quello di superare l'articolo 18. Il dado è tratto, racconta Emilia Patta, il simbolo di tutte le battaglie sindacali da più di 10 anni a questa parte è totem della sinistra, cioè l'articolo 18 verrà cancellato. E tra l'altro, scrive il Sole, il rischio è che venga cancellato per decreto, dal momento che Renzi nel suo discorso in Parlamento ha indicato proprio la riforma del lavoro come urgenza per il Paese. Questo è anche il titolo del Corriere della Sera, l'ipotesi di un decreto sull'articolo 18 è quello che ha fatto molto arrabbiare nella discussione. Fa arrabbiare molto anche Maurizio Landini, che è intervistato da Repubblica. Lui è il segretario generale della FIOM, dice l'abolizione del reintegro obbligatorio per i licenziamenti ingiusti. Il governo deve scegliere, sta con gli italiani o si schiera contro di loro accettando i diktat della Banca Centrale Europea? L'abolizione dell'articolo 18 non era presente né nel programma di Renzi per la segreteria del PD né nella delega del governo sulla riforma del mercato del lavoro. Nasce invece dalla riunione dei ministri economici a Milano nei giorni scorsi e nasce dalla pervicace volontà della BCE di continuare sulla strada sbagliata e fallimentare in questi anni. Questa è l'analisi di Landini della FIOM sull'articolo 18. Dio ci aiuti e ci scampi dall'ennesimo dibattito di tutti questi anni. Renzi ha parlato anche di giustizia, dicendo e citando il caso dell'ENI con l'indagine per corruzione internazionale. Questa è l'accusa all'amministratore delegato Descalzi e quindi ai vertici dell'ENI, quando ha detto non permettiamo che un avviso di garanzia danneggi le imprese. Il Fatto Quotidiano scrive, parla come Craxi e lo definisce scudo umano per l'ENI. Mentre tutto questo urge dibattito, soprattutto sull'articolo 18, un bel dibattitone come non se ne sono mai visti in Italia, il Sole 24 Ore ci scrive, e qui voglio partire con Mauro Meazza, che spunta un aumento della tassa. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Dibattitoni e intanto le cose concrete. Sì, dunque, allora la tassa in questione è quella di successione, esatto, come vedi sul Sole 24 Ore di oggi. L'ipotesi è quella di ridurre la cosiddetta franchigia, ma insomma ti spiega poi tutto Marco Mobili in pagina 3. E sarebbe, se conto bene, il quarto ritocco in una quindicina d'anni. Infatti Marco Bellinazzo scrive la storia che non ha evidentemente un lieto fine, visto che si parla di successioni. È una tassa molto mobile, pur occupandosi di questioni, esatto, come dire, che hanno una loro stabilità, purtroppo, esatto, per tutti noi. Ecco. Esatto. Però viene volentieri modificata. No, si parla appunto di riduzione della franchigia, di aumento delle percentuali di prelievo, le aliquote, ma vabbè, adesso non voglio, come dire, disturbare a quest'ora del mattino parlando di tasse di successioni. Torniamo a parlare di lavoro, guarda, esatto, perché lavoro che c'è o che non c'è, però intanto noi partiamo oggi con una nuova proposta che si chiama Quotidiano del Lavoro. E il Quotidiano del Lavoro è un altro quotidiano verticale, cioè si trova in formato digitale, i primi giorni sarà anche consultabile gratuitamente. Quotidiano del lavoro.ilsole24ore.com e ci sono tutte le informazioni sul lavoro. Tra l'altro oggi con il Sole 24 Ore, e non su internet ma anche in edicola, c'è proprio un focus dedicato ai cambiamenti del lavoro, perché intanto che discutiamo e discuteremo a lungo gli articoli 18 o altro, intanto un po' di cose sono cambiate con il decreto cosiddetto Poletti. Allora riepiloghiamo, anche se come dire, la confusione resta sempre grande sotto il cielo, diceva qualcuno. Vabbè, vedremo se le prospettive sono eccellenti, come continuava sempre questo signore. Senti, sul rent to buy stai studiando? Perché ti ho pescato impreparato. No, ieri però mi hai spiegato già, professore, prof. No, perché è questa misura che ti consente appunto di passare dall'affitto, vedi che come comincio. Se stessi pagando un mutuo, insomma, detto questo molto banalmente, ma se vuoi sapere come stanno davvero le cose, compri il Sole 24 Ore, leggi il Sole 24 Ore di oggi e vai nelle pagine, indovina un po' dove. Di norme? Dove puoi... È di norme e tributi, ma certo, certo, sii fiducioso, di dove troverai tra l'altro anche le indicazioni sui contenuti del decreto legge Sblocca Italia. Parliamo dei conti della Fiorentina, tra l'altro, ma questo è in finanza. Ah, beh, sarà contento Renzi, allora. Non lo so, però può apprendere che i conti si sono chiusi inutile. Ne parliamo perché sai che questa è una settimana anche di competizioni internazionali dal punto di vista calcistico. Ah, sì? Per molte squadre italiane, almeno in questa fase. Sì. Non per tutte, forse, adesso non ricordo bene. Dove giocate? Nelle campagne dell'Albania? No, guarda che veramente noi andiamo a giocare in Ucraina con un certo sprezzo anche. Comunque, vabbè, non facciamo questioni di politica estera. Guarda allora nelle pagine di Mondo, nelle pagine degli esteri del Sole 24 Ore, così sarai più informato, non sulla trasferta dell'Inter, naturalmente, ma su cose più importanti decisive. Bene, e tutto ciò premesso, andiamo. Una sola parola. Traffico. Dai ragazzi, sbrighiamoci che manca solo mezz'ora. Non voglio arrivare al concerto per ultima parte in salita. Lo so che sei stanco, ma resisti. Ancora qualche pedalata e arriviamo su. Amore, dai, scendi dallo scivolo. Non avere paura che io ti prendo la tavola. Finalmente si è alzato il vento. Oggi voglio passare tutto il giorno in acqua. Nasce BMW Serie 2 Active Tourer. Qualsiasi cosa abbiate in mente, scopritela il 27 e 28 settembre in tutte le concessionarie BMW. Strade in diretta. Simovo, buongiorno. Sulla A32 Torino-Bardonecchia ci sono code di 1 chilometro per lavori tra Avigliana Est e Rivoli in direzione della tangenziale nord di Torino. Sulla 12 Genova-Livorno un incidente crea code al momento tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo Ligure. Ci spostiamo sull'Autosole, 1 chilometro di coda tra Casal Pusterlengo e Lodi per un incidente verificatosi sulla carreggiata in direzione di Milano. Sempre in A1 si rallenta tra l'innesto con l'A14 e Modena Sud per materiali dispersi in carreggiata verso Milano. In Lazio ancora sull'Autosole code di 2 chilometri tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord per lavori in direzione Napoli. Sul grande raccordo anulare della capitale ci sono code per un incidente al momento tra la via Appia e la Roma Fiumicino in carreggiata interna. Ed è tutto per ora, più tardi. Alessandro Milan, il debosciato dell'informazione. Oh, questo sì, questo mi piace. Debosciato io e debosciato te, caro ascoltatore. Debosciati tutti in fondo. E allora, dobbiamo spendere molte parole, non l'ho fatto in questi giorni nella lettura dei giornali, anche se i giornali dedicano 2 pagine al giorno ogni volta, sulla vicenda incresciosa della mancata nomina e elezione dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento. Dobbiamo dedicare, ieri il giornale, no, il Corriere della Sera titolava "Oggi è il giorno decisivo", io l'ho messo anche su Twitter, sul mio profilo Alino Milan. Ovviamente è stato un giorno in cui non si è deciso nulla, come succede in Italia, ennesima bocciatura per Violante e Bruno, i due politici che dovrebbero essere eletti nella Corte Costituzionale, questo nell'accordo dei partiti, nuova fumata nera ieri. Come racconta Mario Aiello, c'è un clima di questo tipo in Parlamento. L'effetto paura del tipo "qui se non li eleggiamo subito i cittadini vengono a prenderci coi forconi" si pensava che potesse sbloccare tutto, invece no. Alla verità io non so qual è il parlamentare che sotto anonimato dice questa cosa ai cittadini delle elezioni dei giudici della Corte Costituzionale, non gliene frega niente, per usare un'espressione edulcorata e dolce, non gliene frega niente, gli frega invece ai cittadini vedere che nemmeno su questa vicenda, nemmeno su questa banale vicenda, tutto diventa complicato e in Parlamento non si riesce a decidere neppure questa cosa. Politicamente poi c'è la questione Movimento 5 Stelle, è una frattura bella e buona, pare quella che Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, ha fatto con Beppe Grillo, nel senso che titola per esempio Repubblica: Pizzarotti sfida Grillo, il Movimento 5 Stelle appoggia il PD e torna a rischio scissione. La questione è sulla questione dell'elezione della prossima provincia, ma soprattutto la crisi, racconta Repubblica, è condensata in una foto che ritrae assieme De Franceschi, che è un deputato emiliano, un onorevole, sì, un consigliere regionale emiliano, il deputato Walter Rizzetto e Pizzarotti. Sono loro in queste ore a sfidare la Casaleggio Associati. Il primo cittadino di Parma, Pizzarotti, si spinge oltre le colonne d'Ercole del grillismo, siglando un'intesa col PD e il centrodestra per eleggere un esponente Dem alla presidenza della provincia di Parma. E poco conta se a sera prova a ridimensionare, dicendo non c'è alcuna alleanza né un patto tra partiti, ma un dialogo tra istituzioni. In realtà pare il dado è tratto. Anche il Fatto Quotidiano scrive: Pizzarotti in lista con il PD, rischio scissione nei 5 Stelle. Staremo a vedere. Dovrei mettere poi tutti di botto nella carta costa tutti gli articoli che oggi raccontano del dibattito tra Floris e Giannini, Ballarò e Di Martedì. A un certo punto non si capiva talmente niente, al mattino ieri quando ho scoperto che c'era Giannini ospite di Floris ho detto incredibile, Giannini ospite, no, ma era il ministro Stefania Giannini che era ospite di Floris, invece Floris faceva la sua trasmissione che era uguale a quella di prima e Giannini faceva una trasmissione nuova che era uguale a quelle altre di prima su Rai 3, però lui aveva Benigni mentre Floris aveva Crozza e tutti i giornali oggi dedicano una pagina Benigni Show, saluto Prodi e i suoi 101 ospiti, così Repubblica. La Stampa, duello Giannini-Floris, gemelli diversi in cerca del nuovo, pagina 7 della Stampa, non negli spettacoli, pagina 7 della Stampa sul dibattito meglio Floris o meglio Giannini. E vabbè, e così via. Tutti nella carta costa premio speciale TV oggi questi articoli, ma di cronaca invece... ha colpito molto che cosa? La vicenda di Milano, una vera tragedia con la dinamica pare accertata anche da una lettera che viene pubblicata da alcuni giornali, Repubblica per esempio lo fa, la dinamica è quella della morte di due ragazzi, lui 20 anni, lei 19, pare che la dinamica sono caduti da un balcone al quinto piano a Milano, o meglio la dinamica pare questa, che lui abbia prima spinto la ragazza, la sua ex fidanzata che da poco lo aveva lasciato, e poi anche lui si è gettato nel vuoto morendo. Perché la dinamica è questa? Perché è stata trovata la lettera, o meglio la lettera shock di Pietro si chiamava questo ragazzo, la pubblica a pagina 20 Repubblica. Io ho già perso l'anima, voglio che lei provi terrore prima di dire addio a tutto. Questo è il titolo e questo scriveva questo ragazzo. Quello che scriverò da qui in poi non ha nulla a che fare con i miei ultimi saluti, ma invece servirà a spiegare quello che sto per, e poi cancella le parole e scrive anzi quello che ho fatto. Un odio così forte da essere felice di sacrificare la propria vita per far provare all'altro la vera tristezza. E poi racconta in questa lettera come se fosse già lì sul balcone. Non mi sono lanciato con lei subito, ma anzi le ho prima fatto provare il terrore di perdere tutto, amici, famiglia e futuro. Per questo ho perso l'anima tempo fa. E quando sono salito sul terrazzo ero solo un corpo e un ammasso di rabbia, incredulità e puro spirito sadico. Ho sfogato 7 anni di dolore in 45 minuti di terrorismo psicologico. Insomma, racconta in maniera davvero crudemente anticipatrice quello che poi avrebbe fatto. E infatti anche il titolo del giornale è proprio questo: ti farò soffrire, e la tira giù dal palazzo. La cronaca ci racconta anche che, e questo lo fa il Messaggero a pagina 13, rischiano ora i tifosi del Napoli che aggredirono De Santis, quello che poi sparò uccidendo Ciro Esposito. Secondo la nuova perizia rischiano il tentato omicidio, l'accusa di tentato omicidio, perché sapete che una perizia del RIS dice che De Santis fu pugnalato, fu accoltellato e poi sparò, quindi lui potrebbe addirittura avere una legittima difesa. E addirittura ora sono i tifosi del Napoli che potrebbero passare dalla parte del torto. De Santis, le accuse agli ultra del Napoli rischiano l'incriminazione per tentato omicidio. Ma chiudo con la vera carta costa. Daniela Monti, un'intera pagina del Corriere, non ci volevo credere, è la prima lettera della storia che Stefano... chi è? Stefano è Gabbana o Dolce? Stefano Gabbana scrive a Dolce, sì, è così, non lo so. Il mio è ancora amore. La prima lettera di Stefano Gabbana a Dolce. La prima lettera. Ma chi? Vabbè. Oh, Alessandro Milan, la rassegna stanca. Mattino. Noi siamo disponibili a effettuare un percorso di riforme per cui alla fine si possa persino perdere il consenso. Io non credo, perché credo che gli italiani abbiano voglia di riforme, ma sono persino disponibile a perdere il consenso, sono disponibile a correre il rischio di perdere le prossime elezioni. Non sono disponibile a correre il rischio di perdere tempo. Così dice Matteo Renzi. Ben ritrovati, cari ascoltatori, alle 8:20 minuti. Ben ritrovati da Alessandro Milan. Siamo qui e oggi molti quotidiani raccontano che quello che ha detto Renzi ieri alle Camere è di fatto un'apertura della prossima campagna elettorale, secondo uno schema classico della politica. Io voglio fare le riforme, voglio fare le cose, perché questa è l'ultima chance, no? I 1000 giorni che abbiamo di fronte. Voi non me le fate fare, allora che ci andiamo a votare. Però è un Renzi che ha detto tante cose interessanti, ha posto la riforma del lavoro nettamente in primo piano, con quell'espressione molto forte: basta l'apartheid che mette i lavoratori di serie A, quelli con tutte le tutele garantite, e i lavoratori di serie B, quelli che le tutele non ce le hanno, dall'altra parte. E quindi un Matteo Renzi che vuole per esempio abbattere uno dei totem della sinistra, l'articolo 18, e poi un Renzi che ha messo la giustizia anche in primo piano nel suo discorso, quando ha difeso a oltranza Leni con il garantismo assoluto, a dire non permettiamo che un avviso di garanzia condizioni la politica industriale di un paese. Insomma, un Renzi che ha detto tante cose interessanti, e con voi ascoltatori che potete chiamare all'800 24 0024, vogliamo discutere di quello che ci aspetta nei prossimi 1000 giorni con Luca Telese, che saluto. Buongiorno Luca. Buongiorno. Conduttore di Matrix su Canale 5 il giovedì per ora, ma poi aumenterete, sì, fate un po' più di puntate. Sì, siamo partiti un po' in anticipo, quindi finché ci sono i turni di eliminazione della Champions, il martedì ci riposiamo. Ah, va bene, vi riposate. Saluto anche Claudio Cerasa del Foglio. Buongiorno Claudio e benvenuto. Buongiorno, eccoci, buongiorno. Claudio Cerasa, tra l'altro autore del libro Le catene della sinistra, racconta sempre, anche oggi lo fa sul Foglio, quello che avviene attorno a Matteo Renzi. Intanto Luca, si fa così o si va a votare? Ti piace questo tipo di impostazione? O cioè, in politica ci sta, diciamo, il ricatto, tra virgolette, no? Ma no, non so se ci sta, non so se è efficace, mi sembra anche un ricatto un po' spuntato, a dire il vero, perché la domanda è: voi ce lo vedete Renzi che va al voto subito dopo aver fatto una finanziaria da 20 miliardi? E avrebbe dovuto farlo prima, forse. Adesso credo che sia un po', che ci sia un elemento di bluff. L'elemento di bluff di che tipo? Perché in realtà no, perché se devi fare 20 miliardi di finanziaria e scontentare mezzo mondo, se devi andare al voto sostanzialmente dopo aver promesso qualunque cosa ma non aver ancora realizzato nulla, è difficile poi dopo fare una bella campagna elettorale. È vero che il ragazzo è in gamba, ha grande capacità comunicativa, però non è una posizione comoda, no? Vado a fare una campagna elettorale, vi prometto, e tutti... No, ma è chiaro, ma qui c'è il discorso che lui ha introdotto a dire io le voglio fare le cose, ma voi, il Parlamento, le deve far fare. Cioè lì ci sarebbe l'abilità del far capire che chi non ha voluto fare le cose sono i gufi, i rosiconi, gli avvoltoi, gli ostacoli, insomma, i nemici che identifica ogni giorno. Ma qui c'è la deformazione dei giornali italiani, che non si capisce perché, dopo aver fatto a polpette Berlusconi, D'Alema, Prodi, pensano sempre che Renzi abbia chissà quali meravigliose e recondite cose. Io direi che il discorso ieri, ma sono curioso, è un discorso di sconfitta, cioè il discorso di uno che è amareggiato, cioè sente già il peso di tutto quello che ha promesso e non sa come dare le risposte. Quindi non mi sembra un discorso di un vincente che ha una splendida strategia, mi sembra che quella velata minaccia sia quasi un segno di malmostosità. Un discorso di sconfitta e di amarezza, diciamo così. Claudio Cerasa, è davvero questo? Quando Renzi dice si va al voto se non fate le riforme, lo pensa veramente? Oppure, dice Luca Telese, è un po' addirittura un discorso malmostoso? No, Telese esagera, secondo me. Renzi è in campagna elettorale dal 13 settembre del 2012. Sono passati quasi più di 2 anni e ogni giorno Renzi l'ha vissuto in campagna elettorale, a volte perché era in campagna elettorale, perché ha fatto 2 primarie, una campagna per le politiche, seppur non da candidato premier, una campagna per le europee. Adesso di fatto Renzi, con il discorso di ieri, ha fatto un discorso elettorale, ma perché la tattica, anche la narrativa, come direbbe Vendola, di Renzi è questa: io mi schiero in campo mostrando tutto quello che c'ho nel frigorifero, e se le cose non funzionano io devo per forza minacciare di andare a votare, altrimenti non sono credibile. È una, diciamo, una questione lineare. È vero che oggi è un bluff l'idea che Renzi possa andare a votare, perché ricordiamo un piccolo dettaglio: Renzi ci ha fatto una testa così dicendo aboliamo il Senato, riforma del Senato, se dovessimo andare a votare domani eleggeremo di nuovo il Senato, quindi non sarebbe proprio il massimo dal punto di vista comunicativo. Però è vero che ci si presenta di fronte a noi una situazione di questo tipo, con Renzi che ieri ha promesso ancora una volta di fare 65.000 riforme diverse in mezz'ora, e intanto c'è un Parlamento che da 10 giorni non riesce a leggere il giudice. Quindi sono proprio due diverse velocità. Evidentemente Renzi deve trovare una sintesi, e l'unico modo che ha per trovare questa sintesi è andare lì col frustino e dire olè, galoppate, andate avanti. ma in questo c'è l'abilità di Renzi nel trovare ogni giorno l'avversario, il nemico, no Claudio? Mi sembra di capire. Prima i gufi, poi i rosiconi, poi i magistrati, poi che fanno troppe ferie. Poi... Se mi concede una battuta, c'è una specularità tra la distanza che ha Renzi con il Parlamento e pari soltanto alla distanza tra le promesse di Renzi e le cose fatte veramente. Sì, chiaro, ogni volta che entra in Parlamento sembra infastidito, famose le battute che ha fatto quando si è insediato, ma proprio, come dire, è lì, è obbligato a fare questi passaggi parlamentari, no? Lui vorrebbe già fare un paio di riforme nel tempo in cui passa, invece... Un tweet così, veloce. Adesso, vabbè... Però è interessante quello che tu scrivi oggi sul Foglio, e cioè l'idea che sia entrato nella modalità Schröder. Io volutamente ho iniziato con quel pezzo del discorso di Renzi, cioè spesso si è detto anche a questi microfoni, ma Renzi ha un alto consenso perché le riforme fino a questo momento non le fa, perché fare le riforme vuol dire andare ad intaccare dei privilegi acquisiti da parte di varie categorie in Italia, e lui invece adesso ha quella che tu definisci la modalità Schröder, che nel 2003 le fece le riforme a costo di perdere il consenso. Davvero lo può fare Renzi, secondo te? Ma qui c'è un problema, secondo me, di carattere culturale. Cioè, quando un leader politico ha un fortissimo consenso, ha due possibilità: o utilizzare il consenso come un fine, e quindi un po' come una droga, oppure utilizzare il consenso come un mezzo per fare le riforme. Ieri Renzi, tra l'altro, smentendo dopo 10 giorni quello che aveva detto a solo 24 ore l'intervista al direttore napoletano, al quale aveva detto no, il consenso è fondamentale, non voglio fare le cose contro il consenso, invece ieri ha detto il contrario, perché Renzi ha questa caratteristica che si smentisce nel giro di 10 giorni senza grosse difficoltà, e ha detto una cosa importante, ha detto fare le riforme anche senza utilizzare i sondaggi. Che significa questo? Significa che quando si fanno delle riforme, finora Renzi cosa ha fatto? Renzi ha fatto delle riforme molto popolari. Non è vero che non ha fatto riforme, ha fatto delle riforme che più o meno piacevano a tutti quanti, o meno le ha annunciate. Adesso fare delle riforme impopolari significa fare quello che ha detto ieri, cioè l'articolo 18, se non lo togli questo Parlamento lento, capriccioso e noioso, lo tolgo io con un decreto e ti è. Altrimenti, se la riforma della giustizia, se non si fa come dico io, se non fate come dico io, caro Parlamento, ci penso io e faccio un altro decreto bestiale. Ovviamente poi, piccolissimo problema, se andate a vedere le commissioni lavoro e giustizia alla Camera e al Senato, c'è un leggerissimo problema che alla Commissione Lavoro alla Camera sono 10 sindacalisti ex CGIL, Commissione Giustizia al Senato sono ex magistrati. Ma è chiaro, ma è per questo secondo me ha messo avanti la questione, a dire o facciamo le cose oppure si va a votare. Però insomma, Luca Terese, qua la questione è che molti dicono: ma che alternativa c'è a Renzi? Anche questa impostazione forse è sbagliata, c'è sempre un'alternativa a tutto, però effettivamente all'orizzonte cosa si profila? Cioè che cosa c'è Renzi e Renzi, no? Ma non lo so, io vi ascolto un po' stupiti, cioè un po' stupito, cioè tutto viene trasfigurato. Finora Renzi ha fatto una serie di promesse che hanno superato una serie di promesse non realizzate che hanno superato un'impressionante sequenza di promesse non realizzate, ovvero la famosa conferenza stampa delle slide. Dopodiché tutti noi speriamo che Renzi riesca a fare grandi cose, tutti noi speriamo, visto che sono i nostri soldi, il nostro futuro, il nostro stipendio, che ce la faccia, però finora tutto questo non c'è stato, quindi il problema di che cosa c'è se Renzi fallisce è: ma che cosa c'è in alternativa in questi anni? Cosa c'è stato? Si diceva: se finisce Monti è finita la storia dell'umanità. Stiamo parlando di uno che doveva fare il Presidente della Repubblica, è durato meno di 2 anni. Se finisce il governo Letta, questa è l'ultima scialuppa. Cioè, in questa sorta di idea un po' millenarista della stampa italiana, si nasconde il tentativo di dire: vabbè, le cose non ci sono, però se non c'è lui è finito il mondo. Guarda, il mio parere personale è che in realtà gli italiani siano ingovernabili. Cioè che non è che c'è Renzi o non Renzi o Renzi o un altro o no, Luca, sono troppo disfattista. Per come è strutturato il sistema, nessuno può fare. Ma Renzi non ha fatto le riforme per ora, perché su alcune cose importanti non sapeva cosa, non aveva le idee chiare. Questa è la verità. Prendi la scuola, domani cambia la scuola italiana, e poi dopo arrivano tre raffiche di bazooka e gente dice: cosa fai, cosa tocchi, eccetera, e lui ferma tutto. Sì, ma io ti ribalto la questione, ti chiedo, Luca, secondo te il sistema italiano è fatto in modo per cui se il Presidente del Consiglio decide oggi voglio cancellare l'articolo 18, lo può fare domani? Come no? Lo può fare domani? Come no? Tant'è vero, questa è l'unica cosa, dopo tante esitazioni, il discorso di Renzi ha una cosa chiara ieri, cioè dice: vi faccio giocare un po' alla Camera, poi faccio la mia legge. Il decreto sul lavoro. Lo può fare secondo te Claudio Cerasa? Tu ci hai detto che in realtà Claudio poi ci sono le commissioni lavoro, ma giustamente le leggi vanno fatte in Parlamento, in genere è così, se non arriva il decreto. Lo può fare dall'oggi al domani Claudio Cerasa di togliere l'articolo 18? Renzi può fare tutto quello che vuole, cioè non esiste i gufi e i rosiconi o i soliti noti, come dice Renzi, ormai è alla ricerca di un nemico che gli è anche utile per descrivere la sua battaglia epocale. Renzi non ha nemici, l'unico nemico di Renzi è Matteo Renzi, cioè, per quanto si possa pensare che le commissioni parlamentari siano importanti, io tenderei a escludere che Cesare Damiano possa essere il grande nemico di Matteo Renzi. Renzi vuole fare una cosa, la fa, quello è il punto. Il problema è quella cosa che Renzi annuncia, poi la vuole fare davvero? Perché oggi Renzi dice: ah, grandissimo articolo 18, ma dobbiamo approvare anche un decreto se il Parlamento non segue il nostro ritmo. Va bene, poi vediamo se tra due settimane, quando in Parlamento arriveranno i problemi, Renzi avrà il coraggio. Poi c'è un dato politico che a me... E poi il coraggio vuol dire sempre il coraggio di perdere il consenso, perché va a intaccare le posizioni sempre lì, però ha detto di volerlo fare. Ha detto, infatti noi ce lo siamo segnati, quando arriveranno sì. al dunque cercheremo di capire... Mi ricorda quale... molto me lo segno. Ci vediamo sì. fuori, il ci vediamo fuori dalla porta. Il troisimo, me lo segno. Ci sono due Renzi, secondo me, che coesistono nello stesso Renzi. C'è il Renzi del 2012... quello che sfidò Bersani con un programma riformista e forse anche per quello non riusciva ad andare bene, e poi Renzi che all'ultima primarie ha vinto senza dire una parola praticamente, perché io neanche ricordo chi sono gli avversari, quindi bisogna capire quale dei due Renzi oggi qua siamo qui non a Renzi e l'opposizione, ma a Renzi e quale Renzi dei Renzi. Vabbè, andiamo alla pubblicità. 24 mattino. Siamo qui allora alle 8:40 minuti con Luca Telese e Claudio Cerasa. Vabbè, Renzi ha detto anche che la legge elettorale è una priorità. Io sapete che conto le settimane, la 72esima settimana decisiva per la riforma elettorale, decisiva in questa legislatura. Però la questione per esempio del lavoro, ecco, prima di andare agli ascoltatori, Luca Telese, una cosa che secondo me è, se uno dice che ci sono tante persone tutelate e molte persone non tutelate, c'è questa spaccatura, mi sembra una fotografia talmente banale che cioè dire che non è così, eppure sento Fassina subito del PD, subito che si è Landini della FIOM, ecco è sbagliato eccetera. Io non lo so se la ricetta giusta sia quella dell'articolo 18, credo che l'articolo 18 sia una cosa minoritaria, ma fotografare una realtà con tante tutele per chi ha il posto di lavoro garantito e magari non fa niente dalla mattina alla sera e zero tutele per tutti i giovani, le nuove leve, i cococò, i precari eccetera, non è una fotografia indiscutibilmente reale di quello che è il paese? No? Sì? La fotografia è una cosa, e la proposta di riforma è un'altra. Finora si è aggiunta una nuova forma di precarietà, il contratto diciamo rinnovabili, che addirittura all'inizio prevedeva la possibilità di 7 licenziamenti e poi questa cosa è stata ridotta in un periodo molto breve, e adesso si dice c'è qualcuno molto tutelato, quindi dobbiamo togliergli dei diritti. Qual è il corollario? Se si vuole sconfiggere la precarietà bisogna cancellare almeno la metà dei contratti precari che sono possibili. Introducete almeno una sola forma di precarietà. Cioè la situazione nel mondo del lavoro è così terrificante che non è che dici togliamo a chi ha qualche garanzia delle garanzie. Cioè non ti piace l'impostazione, come dire, non è che per dare più tutele a chi non le ha bisogna togliere a chi le ha. Questo non... Guarda, ti faccio un esempio banale e incredibile. Quest'estate, sai, nel nostro mondo del giornalismo, per essere assunti alla RAI bisogna avere una prima utilizzazione RAI, sì, nel mondo dei giornalisti, quindi bisogna aver già lavorato per la RAI, se no non puoi essere assunto, anche se sei bravissimo bisogna fare una deroga al direttore generale. Per essere assunto alla 7 bisogna non aver lavorato alla 7, perché la 7 si tutela dall'ipotesi, dalla possibilità di cause, e quindi se hai già lavorato alla 7 puoi essere bravissimo, non ti assumono. Allora il problema è: abbiamo introdotto una nuova forma di flessibilità, ma non l'abbiamo armonizzata con tutte le altre, quindi deve cambiare il disegno di tutti, non togliere ad alcuni delle garanzie. Io vorrei sentire Roberto da Trani, ci chiama. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Io noto una cosa, capisco che i giornalisti devono fare il loro ruolo, però noi in questo momento veniamo da anni in cui ci lamentavamo che non si faceva niente, adesso c'è uno che vuole fare, si va a cercare i puntini tra le virgole, i puntini sulle i, no ma questo è sbagliato, questo non lo farà, ma ci dice, parla così, quella. Facciamolo fare, alla fine tanto peggio di come stiamo è difficile. Ah, lei dice, quindi se non lo facciamo... No, aspetti. Se non fa, non lo voteremo più. Tutti nascondiamo ufficialmente una cosa: Monti è arrivata perché l'Italia era fallita e ha dato credibilità internazionale a dire non mettete in cassa i debiti che abbiamo in giro per il mondo, perché se no saltiamo all'aria. questo lo stiamo dimenticando, come se fosse una cosa così, come se ci andiamo a pigliare il caffè stamattina tutti quanti insieme. Noi eravamo falliti come paese. Quindi lei dice facciamo facciamo poi lavorare vedremo. Renzi e poi vedremo, ma è chiaro. Se questo salta, siamo tutti proprio. No, su questo senza dubbio, non è che Renzi si gioca la sua partita politica o non solo, certamente c'è l'Italia, come ha detto Luca Terese, con i nostri stipendi, con le nostre famiglie, con le nostre reti sociali e il nostro paese, insomma, tutto quello che è il nostro presente e il nostro futuro. Luciano da Torino, buongiorno Luciano. Buongiorno Cruciani. No, sì, sono Milan, però va bene, ma Cruciani glielo saluto. Okay, Milan, sì, è vero, Milan. È uguale, Milan okay, o Cruciani, okay. Uguale. Ma due deficienti. Rubo pochissimo tempo, io volevo dire questo, un gran parlare di Renzi continuamente, no? Siamo andati a votare per avere un certo tipo di governo, sì. No? E oggi ce ne troviamo un'altra e prima di lui ce n'erano altre ancora, ma la cosa migliore andiamo a votare, vediamo cosa vogliono gli italiani e poi si governa, si fanno le leggi che bisogna fare tagliando se c'è da tagliare, perché mi sembra che alla fine poi dove si va a tagliare? Esclusivamente verso il basso, dove ci sono i poveri. Io non ho capito, lei vorrebbe andare a votare, ma perché c'è? Vorrebbe andare a votare perché Renzi in fondo non ha avuto una legittimazione popolare. Sì, cioè lui praticamente oggi ma votare fare, ma tutte le, ma andare a votare vuol dire, scusi Luciano, andare a votare vuol dire che cioè, la campagna elettorale, Claudio Cerasa, aiutami tu, la campagna elettorale, perdiamo altri sei mesi, l'insediamento del Parlamento, ma poi ci vogliono male, cioè vogliono farci raccontare sui giornali un'altra campagna elettorale. No, cioè. La par condicio no! La par condicio no! Mi metto di traverso contro la par condicio. No. Scherzi a parte, secondo me oggi nessuno al mondo, forse tranne l'ascoltatore, ha voglia di andare a votare e in Parlamento nessuno pensa che sia giusto andare a votare perché non conviene a nessuno. Il centrodestra non ha un candidato, Grillo pensa se è giusto candidare un indagato o no in Emilia Romagna, se è giusto allearsi o no con il Partito Democratico, è un po' in stato confusionale. Alfano ieri abbiamo visto tutti quanti nelle immagini accanto a Renzi, ci siamo ricordati che esiste NCD perché abbiamo visto Alfano appunto accanto a Renzi, altrimenti prove di vita di NCD non esisterebbero. Nessuno si ricorda più se è ancora qualche parlamentare, insomma non è una fase facilissima. Anche Renzi dovesse andare a votare oggi e si ritroverebbe domani con una grande coalizione, non con Alfano ma con Berlusconi e con Maria Clara Rossi. Ma andare a votare, dai, non scherziamo, cioè speriamo di no, ma speriamo che non ci sia bisogno, anche se la velata minaccia politica c'è stata da parte di Renzi. Andiamo a sentire il traffico, poi voglio salutare intanto già Vincenzo Smaldore, buongiorno, responsabile editoriale di Open Polis, buongiorno Smaldore, perché sapete che il nuovo avversario pare identificato da Matteo Renzi è il parlamentare fannullone, ma lavorano o no questi parlamentari che manco riescono a eleggere due giudici della Corte Costituzionale? 24 mattino. Eccoci qui allora, Vincenzo Smaldore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, questi parlamentari lavorano poco, tanto, abbiamo sentito dire, ma lì si sa che anche un po' l'identificazione che Renzi ha come strategia politica sempre dell'ostacolo, del gufo, del rosicone che impedisce le riforme, che i parlamentari lavorino due giorni e mezzo a settimana. Ora la grande battaglia è di farli lavorare niente meno che anche il lunedì e il venerdì. Ci dica un po' di dati, visto che voi li monitorate quotidianamente. Ma innanzitutto buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ma che dire, le esternazioni di Renzi si basano su dei dati che in realtà sono veri, nel senso che la settimana tipo di un parlamentare prevede 2-3 giorni di dibattito in aula, poi alle commissioni, però fondamentalmente il lunedì, il giovedì pomeriggio e il venerdì non lavora in Parlamento, quindi c'è una base di verità nel fatto che abbia una settimana corta. Questo negli anni è stato organizzato così, pensando poi al parlamentare che dovesse portare avanti una attività politica, un'attività sul territorio. Esatto. e quant'altro. Cosa e che con l'attuale legge elettorale non dico che sia inutile, cioè ai fini pratici è inutile, tanto sono tutta una, con l'attuale legge elettorale sono tutti scelti dai partiti, ma ha un senso ancora questo legame? Ma guardi, secondo me sì, il punto è che allo stato attuale questo che è un elemento di verità si va poi a innestare in un ragionamento più complessivo per cui essendo il nostro un sistema di repubblica parlamentare, è ovvio che il parlamentare deve essere centrale perché è lui che rappresenta i cittadini, deve avere un collegamento col territorio, deve essere lui il centro dell'attività legislativa. Ed è qui che le cose incominciano a non andare più, nel senso che negli ultimi anni, ora a prescindere dalla settimana corta del parlamentare, ci sono stati anche casi in cui la Camera e il Senato sono stati chiusi perché i rispettivi presidenti dicevano guardate che noi non abbiamo niente da fare, non ci sono atti da discutere, perché ormai gradualmente ma in maniera inesorabile tutto il potere si è spostato nelle mani del governo. E quindi ciò, in mancanza di una revisione dei meccanismi istituzionali di equilibrio, sì, ha creato dei problemi. Ad esempio anche il dibattito di questi giorni sul perché sono settimane che il Parlamento è inchiodato su i giudici della Consulta, ma lì, come dire, io non me la sento di dare la colpa al Parlamento se gli accordi per individuare i nomi vengono fatti fuori dal Parlamento, dal governo con l'opposizione. È evidente che lì abbiamo fatto una cosa molto all'italiana, nel senso che sono anni che la direzione è quella di dire la Repubblica parlamentare non va più bene perché i poteri sono tutti in capo al governo, l'attività legislativa è tutta fatta dal governo, però in mancanza di una revisione costituzionale siamo andati poi a ritrovarci in situazioni di difficoltà. A questo va aggiunto il discorso che fondamentalmente sono ormai diversi governi da Monti, ora insomma anche Letta, poi Renzi, in cui non c'è una maggioranza parlamentare che sostiene l'esecutivo chiara, e quindi l'attività del Premier e del suo governo ogni volta incontra la difficoltà di andarsi a trovare i numeri in Parlamento. Sì, vabbè, adesso la maggioranza però ad esempio alla Camera c'è, o al Senato, più meno risicata che in passato. Io però vorrei tornare a Luca Telese. Quando Luca, io ho detto gli italiani sono ingovernabili, questo è il mio parere, insomma, e lo so che l'ha detto anche Mussolini, ma l'ha detto anche altre persone, anche Dante parlava della nave senza nocchiero in gran tempesta, per quel che riguarda l'Italia, quindi non è che tutto deve essere riferito a Mussolini. Però ti ricordi il primo giorno in cui furono insediati Boldrini e Grasso, che andarono a Ballarò? Allora a Ballarò c'era Floris a dire faremo lavorare anche il lunedì e il venerdì. Cioè non si riesce a fare, e sono passate 72 settimane, neanche una cosa così banale. Non si riesce a fare nulla in Italia perché le contromisure che vengono messe in campo appena uno vuol fare qualcosa sono terribili, o no? Ma io ti sento un po' populista, il problema non è quanto lavorano le Camere, lo dico da cronista parlamentare, ma è come lavorano, se convertono decreti, se fanno delle leggi. Quindi il problema di dare la possibilità anche del cosiddetto riposo, se poi i parlamentari devono andare sul territorio, non è tecnicamente sbagliata. Si potrebbero prevedere delle sessioni tipo Parlamento europeo, una sessione discussione, una sessione deliberante, una sessione di riposo. Cioè il problema è come organizzare questo lavoro, se uno conosce e immagina e sa qual è il lavoro che devono fare le Camere. Il problema è che in questi anni le Camere hanno semplicemente convertito decreti, questa è la verità. Ci sono bellissimi disegni di legge, per esempio sui diritti civili, che giacciono in commissione dopo tante discussioni, ma non diventeranno mai legge perché c'è il treno dei decreti da approvare, da votare con le pulsantiere senza neanche sapere quali sono gli emendamenti. A me questa è la cosa che mi frustra di più, vedendo e conoscendo e frequentando il Parlamento italiano. Cioè il potere legislativo ormai in capo al governo, coi decreti legge e non al adesso Parlamento. Adesso sì, guarda, il classico è il decreto diligenza, il decreto omnibus, con 14.000 emendamenti, che vanno dalle cacche dei piccioni alla riforma del lavoro, e poi si fa un po' di ammuina, mettici dentro questo, mettici dentro quello, poi si vota tutto insieme con una fiducia e via. Claudio Cerasa, per concludere, quando Renzi parla del parlamentare che lavora poco, è anche lui un po' populista, oppure la sua strategia di identificare sempre l'avversario e l'ostacolo, o che è? Beh, insomma, il parlamentare non è che lavori proprio tantissimo, però che sia, diciamo, che l'idea che il parlamentare debba lavorare di più, molto di più, sia coincidente con l'idea che le cose poi andranno meglio, non so se è esattamente giusto. Ma è come la questione che la questione giustizia passi dalle ferie dei magistrati, è ovvio che non è così. No, certo, questo rientra. No, ma qua c'è il grande equivoco culturale che per governare bene bisogna fare più leggi. Ma non è così. Ah, non è che secondo me non è assolutamente così, anzi. Da un certo punto di vista, se il Parlamento non sia costretto a lavorare troppo, non sarebbe così male, perché molte cose si possono fare anche a legislazione invariata. Su questo non c'è dubbio, meno leggi e meglio è. Va bene, ma io qua mi devo fermare. Ringrazio Claudio Cerasa, redattore capo al Foglio, autore del libro, lo voglio ricordare, Le catene della sinistra. E ringrazio Luca Telese. Domani dunque in onda Matrix su Canale 5. Grazie Luca per essere stato con noi, così Vincenzo Smaldore, responsabile editoriale di Open Polis. Ci fermiamo qui e l'appuntamento è domani alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.